בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Ok, buonasera a tutti, un orario inusuale per me, che di solito sono le 22 e non sono il conduttore. Stasera sono il conduttore perché il mio amico Gilles Facchinelli stasera fa solo il regista, lo salutiamo. Buonasera a Matteo Pascotto che ci viene a trovare da Portogallo. Buonasera. E buonasera dal suo compagno, vediamo se pronuncio bene, Edu Appel. No, non è così, com'è? Vai al microfono. Hebling, perfetto, bello, non c'entrava niente. Sei diventato arabo. Edu, Edu però va bene. Edu, come Eduardo. Edoardo, mettiti davanti al microfono. Sono Hebling, ecco, benissimo. Hebling. Adesso ti chiamo Edu che è meglio, va bene. Va benissimo. Ok. Buonasera cari ascoltatori, stasera abbiamo Matteo Pascotto che è un cantautore, tra virgolette possiamo dire così. Ma no dai, beh, tra virgolette nel senso positivo, sì, sì, assolutamente, sì, sì, sì. In questa fase di Blue Time Live dalle ore 21 fino allo, cari ascoltatori, l'ho spostato fino alle 23, di solito dovremmo terminare alle 22:30, ma stasera essendo agosto i conduttori sono in vacanza, ci sono solo io con Gilli in regia, quindi abbiamo un po' sforiamo, andiamo verso le 23. Che bello. È bello, tutto dal vivo, tutto in diretta. Allora, il progetto di Matteo Pascotto, dove ho letto nelle tue note che a 13 anni hai trovato una chitarra da suonare, un po' prima forse. Era già lì, eh. Era già lì. Te l'avevano prestata. Ci ho messo 13 anni. Mettiti davanti al microfono. Ci ho messo 13 anni per decidermi a prenderla in mano. Quindi, esatto, perché era la ferma. Era ferma. Era piena di botte, sai, di quelle chitarre, sì, che stanno lì, che sono ornamento, ormai nessuno le considera più. Però anche una chitarra ornamento serve per cominciare. Sì, poi è tutta una storia particolare, perché era un regalo di fidanzamento dei miei genitori. Ah. Mia mamma aveva regalato questa chitarra, le classiche storie. Sì, era, certo, lì, era lì una ferma, bella storia, però, presa a calci, a pugni nel corso degli anni. Aveva un po' caduta. Di cose, insomma. Polvere da vendere. E poi lì ho detto basta, adesso la usiamo. Me la vedo io. Te la vedi te. L'hai sistemata e hai cominciato a suonare che cosa? A strimpellare che cosa? Ma in oratorio con i ragazzi, così, un po' suonare in chiesa. Certo, bellissimo. Ho fatto anche quello. E poi un po' alla volta suonando insieme altri ragazzi, insomma, ho detto, beh, insomma, dai, si può studiacchiare poco. Pochissimo, vero Edu? Molto poco. Non come lui che ha studiato molto. Ma io accolgo da lui che ha studiato e adesso mi accodo. Poi, cari ascoltatori, parleremo in che studi ha fatto Edu musicalmente parlando, dove sei introdotto. Che lui è d'origine brasiliana, però vive in Italia parecchio tempo, vive a Mestre. A Mestre, sì, dal 90. Dal 90, quindi ormai sei cittadino italiano a tutti gli effetti. Certo. Esattamente. Benissimo Matteo, quindi hai cominciato ad introdurli nel discorso musicale, con i gruppi si fa una band, ci si conosce, sì. Di solito i chitarristi sono più avvantaggiati, mentre le band cercano sempre i batteristi, ce ne sono pochi i batteristi, anche i bassisti non sono proprio, sono ricercati nelle band i bassisti, cosa dici Edu? Non mi cercano tanto. Ah, non ti cercano tanto. Tengo stretto le band che ho già. D'accordo, ma all'inizio parlavo. Beh, io ti ho cercato però. Lui mi ha cercato. Hai cercato. Allora, Matteo, hai cominciato e sì, nella biografia c'è scritto che ami particolarmente sia il blues, il rock, ma anche il blues e il funky. Sei un po' a 360 gradi. Sì, il soul. È il soul, diciamo, soprattutto il soul. Mi piacciono le cose black. Ti piacciono le cose black? Sì. Questa armonia, queste arie molto scure, insomma, comunque musica di colore, mi piace molto. Perché la black musica? Perché senti la black music? Non lo so, così? Forse è il ritmo, sai. Cos'è il ritmo? Forse sì, è una questione di dibattito proprio. E quindi tanto anche soul è il primo gruppetto che ho dovuto soffrire, perché sai che i chitarristi sono un po' egocentrici. Di solito di sì. Di natura. E facevamo light blues, Blue Mama si chiamava, Blue Mama. Mia sorella che cantava, ed era un progetto, si faceva cover Nora Jones, Sade, quindi molto soft, no? Decisamente. Erano gli anni in cui ascoltavo Steve Vai, tutti quei... Beh, non faceva proprio black music Steve Vai. Ho avuto in 16 anni, 17 anni, questo momento di virtuosismo che per fortuna... Steve Vai è un virtuosista esasperato. Sì, ma non ce l'avrei mai fatta, voglio dire, comunque a gestire quei ritmi, quella velocità lì, proprio per un problema di studio, certo, soprattutto. Sono sincero. Ma ride sempre, Edu. Sì, ride, prendi in giro. No. sta facendo delle riflessioni praticamente. E poi comunque diciamo che per fare quel genere lì ho dovuto insomma anche diciamo togliere molte cose, no? Quindi fare l'essenziale, curare l'essenziale, e poi ho cominciato a fare qualche coretto perché mi piaceva canticchiare. Poi ho detto basta fare coretti, canto io. Me la vedo io e quindi poi da lì insomma, è cominciato il percorso praticamente. Sì, un altri progettini sempre di cover, però insomma l'esigenza di scrivere quella è arrivata tardi, ma è arrivata la chitarra, è arrivata tardi, ma è importante la voglia di scrivere cose proprie. Sì, assolutamente. Sì, questo è positivo. Sì, anche se chiaramente per cominciare bisogna suonare le cover. Sì, poi le cose si possono allontanare dalle cover, ci si possono fare le cose proprie. Cosa dici, Edu? Noi cerchiamo di portare avanti le cose inedite. Lo so che le cover può essere difficile, bello, può essere positivo o negativo. Per me, io non voglio tirarmi dietro tutte le ire delle cover band, però le cover band fanno il loro lavoro. Però le cover band o le tribute band hanno cominciato a disgregare il discorso dei pezzi inediti. Li hanno messi in crisi i pezzi inediti. Le band inedite sono in crisi perché ci sono le cover band, le tribute band che purtroppo tagliano gli spazi a questo. È un discorso un po'. È un po' che si mangia la coda. No, nel senso che secondo me è un risultato di un problema culturale un pochino più ampio. Cioè, non è che loro hanno causato niente. No, assolutamente no. Si alimentano della crisi. Esattamente. La crisi è culturale, non è colpa loro. Insomma, devono vivere come tutti noi. Certamente. Però c'è questo spazio perché non c'è più la cultura di ricercare un brano originale. È vero, cioè la cultura di sentire già sentito praticamente. Esatto. Quindi non far fatica a sperimentare, a trovare, a cercare. Vedi che io ho scelto il bassista non solo musicalmente preparato, ma anche proprio culturalmente preparato. Chiaramente, è assolutamente culturalmente preparato. Nessuno lo cerca, ma io l'ho voluto fortemente. Benissimo. Perché parlo bene. Perché parli bene. Parli perfettamente italiano, quindi perfetto. Cosa dici, Gil? Cominciamo ad aprire la finestra come facciamo di solito. Abbiamo scelto un primo pezzo da disco. Matteo, che pezzo hai scelto? Che è il singolo, così? Nell'aria. Che è il singolo trainante. Si può definire ancora singolo ai tempi che corre adesso? Ma che ne so io. No, è un pezzo che va bene, è un pezzo che è interessante. È un pezzo, mi avevano detto all'epoca, molto radiofonico. Ecco, esattamente. Un po' fa caldo qua dentro. Ma fa caldo perché la frase che ho detto io. Esatto. Lui non vuole sentire la parola discografico. No, discografia. Lo so, non esiste la discografia. O meglio, esiste per modo di dire. Per un discorso di crisi. Chiaramente la discografia è in crisi visto i tempi che corrono. Le case discografiche sono in crisi visto i tempi che corrono. E cercano di mangiare qualcosa mandando in onda, cercando di lanciare i rap. Adesso sono i rap che fanno la storia italiana delle classifiche. Adesso è la stagione del rap praticamente. Prossimo disco lo faccio rap allora. Ecco, prossimo disco lo faccio. Addio Matteo. È stato bello di suonare. Grazie. Una cosa molto veloce. Al prossimo, prossimo. Sentiamo il pezzo allora, Matteo, cosa dici? Sì, ok. Sì. Tutto è possibile. Non crederesti mai a quante cose poi farai. Sembra impossibile. Andando avanti, sbagliando come tanti, capiamo i limiti, i nostri limiti. Se sei d'accordo, giriamo questo mondo per poter dire a tutti che nell'aria c'è qualcosa che indescrivibile. Non so cos'è, ma vedo che mi fa volare. Mi guardo attorno, è quasi mezzogiorno. Mi sto chiedendo se tu cerchi come me. Parliamo tanto, a volte senza senso. Cerco essenzialità, mi dà serenità. Perché mi guardi, non credi sia un po' tardi per farmi credere che basta ridere per dare un senso a ciò che parla dentro. Voglio riuscire a dire che nell'aria c'è qualcosa che è imprevedibile. Non so cos'è, ma vedo che che nelle mie notti fammi rimanere. C'è qualcosa che è indescrivibile, non so cos'è, ma vedo che mi fa volare. Nell'aria c'è qualcosa che è imprevedibile, non so cos'è, ma vedo che mi fa sognare. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Eccoci qua, abbiamo sentito il pezzo, caro Matteo, nell'aria. E nell'aria è importante per due fattori. Intanto, innanzitutto un pezzo molto pop, molto accattivante, che prende immediatamente. E poi è collegato a un videoclip. Sì, ho girato un videoclip con degli amici di Portogruaro, che sono anche loro... Salutiamo. Fart Film. Benissimo. Sono molto, molto bravi, molto bravi. C'è un bel fermento comunque a Portogruaro di ragazzi, insomma, che si buttano, che fanno, insomma, c'è tante band a Portogruaro che girano. Sì, ma anche qualcuno che c'è un bel movimento, insomma. E quindi loro sono proprio cinemaker, e hanno girato questo video. Ovviamente il testo della canzone parla che nell'aria c'è qualcosa di bello. Non c'entra niente con quella di Marcella, vero? No, assolutamente no. Non c'è niente di quella di Marcella. Niente, molto, molto estivo, sì, molto solare, ma non ha grandi messaggi complessi, insomma, semplicemente nell'aria c'è qualcosa di bello, insomma, che ci piace, ecco. E va bene qualche volta. E va bene in questo periodo estiva. E quindi il video, per chi vuole andare a vederlo, insomma, è molto su YouTube, basta cliccare Matteo Pascotto nell'aria e è molto solare. Sì, decisamente. Ci sono immagini al mare, ho portato il cane, abbiamo fatto riprese con i bambini, così. Mi sono divertito molto, molto. E poi è tratto dall'album Ora Puoi Uscire, che è uscito un anno e mezzo fa, pare. Sì, 2011. 2011, il primo tuo album. È una bella cosa arrivare a un album vero e proprio, vero Matteo? Dopo tanti anni che uno scrive i pezzi e non vede mai la strada, ma finalmente hai trovato la strada giusta, sei riuscito a incidere un disco. Infatti Ora Puoi Uscire è un po' ironico, però ha questo senso qua, nel senso che si sta sempre fermi per paura con le cose nel cassetto, no? Per paura di buttarle fuori e chissà cosa succede, chissà se piace, chissà sono arrivato a un certo punto in cui, vabbè, mille peripezie, insomma. Ma come l'album è stato autoprodotto da te? Autoprodotto, sì. Come adesso, stato inizialmente qualche interesse, ma poi tante parole, insomma, quindi alla fine ho deciso proprio di dire ora... Faccio da solo. Esco. E quindi insomma... Questa è stata l'esperienza, insomma. Ho capito, una cosa molto interessante e positiva, l'autoproduzione. Caro Edu, visto che tu sei un esperto del ramo, l'autoproduzione è la chiave di volta per uscire a scavalcare le cosiddette discografie o industrie discografiche che una volta premevano sugli artisti, adesso un po' meno. Un po' meno, però il problema adesso resta sempre la distribuzione. Esattamente. È una spada di Damocle la distribuzione, c'è poco da fare. Sì, è quello... È rimasto comunque un blocco per la maggior parte della musica creativa, perché comunque l'autodistribuzione va sempre un po', c'è un po' di dispersione, certo, bisogno certo. di altro tipo di pubblicità, divulgazione, sempre difficile. Però io credo che sia arrivato il momento proprio da chi suona, mm-hmm. chi ascolta, anche crearsi un mercato molto piccolo, molto tra virgolette di quartiere, ma riuscendo a fare la propria musica. Certamente, riuscendo a fare la propria musica. Matteo, tu sei riuscito a fare la tua musica, a incidere un disco, a fare un disco, a formare un disco, a mettere un disco che la gente può ascoltare, che può comprare ed ascoltare, chiaramente. È una cosa molto positiva, molto bella. Sì, tramite un'etichetta online sono riuscito anche a metterlo sui vari store, canali, quindi iTunes, eccetera. È uno sforzo immane. Ah, indubbiamente, perché... anche dal punto di vista creativo, anche economico, chiaramente. Sì. Perché è immane, perché sei solo fondamentalmente. Certo, insomma, sei solo. Ti aiutano, certo, vieni aiutato, però sempre in un contesto in cui insomma si lavora e quindi sei tu quello che produce, insomma è stata veramente... Infatti a un certo punto ho fatto parecchi live, insomma tutta l'estate avevo una band, insomma... Non ce l'hai più la band adesso? Diciamo che il progetto insomma del disco si è un po' fermato, perché per mantenere il ritmo devi... insomma ero molto solo, quindi insomma per mantenere il ritmo era un lavorone... Non da poco. E quindi io, a un certo punto ho detto ok, adesso studio un po', cioè nel senso mi fermo un attimo e voglio approfondire un po' proprio la canzone, poi ne parleremo in caso dove l'ho fatto questo. Certo, certo. Però insomma era diventato, a un certo punto veramente ero un po' stanco, nel senso che sostenere tutta questa cosa da soli, insomma tante porte chiuse ovviamente, però qualche bella soddisfazione. Per esempio abbiamo fatto una serata a Bibione in Piazza Fontana, cioè una piazza molto bella, agosto, era come si dice, la notte bianca, certo, la notte bianca, insomma, sì. Saranno state 2000 persone, bello, penso, bello, positiva, ed è stato bello con la band al completo, quindi presentazione del disco, insomma bello, bello, bello, bello. E poi hai conosciuto e hai trovato Edu per la strada, adesso sì. Ti diverti con lui musicalmente parlando. Come l'hai conosciuto Edu, che è un musicista valente? Edu ha suonato con un sacco di band, ha accompagnato artisti di calibro come Lavanoni ed altra gente. Come mai si è introdotto in questo ambiente Edu? Sei arrivato dal Brasile e poi hai trovato l'ambiente giusto in Italia? Beh sì, io già suonavo in Brasile, per cui... Pensavi di non parlare tu, eh? No, qua parlano sempre tutti. Ecco, volevo studiare architettura in Italia, no? Per quello mi sono trasferito, anche insomma, per ritrovare le radici della mia famiglia, no? E però dopo un anno di architettura, neanche un esame, sei stancato. Ero già richiesto. No, avrei fatto, perché è una cosa che mi piace molto. Però mi avevano già chiamato per suonare Vedi. In tante situazioni, tra cui una tournée in Brasile. Di caso. E allora mi è sembrato un messaggio, insomma, importante. Poi da lì insomma ho trovato vari gruppi. C'è un turnover di classe, suoni con parecchia gente praticamente. Beh sì, infatti adesso suono con la Ornella Vanoni, con cui sto curando anche gli arrangiamenti nuovi del suo nuovo live. Disco? Ah. No, il nuovo disco è sempre di Mario Lavezzi. Ah, sempre Lavezzi scrive i pezzi suoi. Ovviamente in live siamo un trio molto ridotto, acustico, per cui stiamo portando la sua musica a una chiave un pochino più cameristica. Mm-hmm, ho capito. Jazz, per cui questo è un lavoro che sto facendo volentieri, no? Poi anche suonato vari anni con Massimo Bubola. Che qui abbiamo ospitato, esatto, è venuto e poi infatti, più di una volta. Con Sergio Caputo, con insomma tanta gente... Ecco, mi hanno colto bene, ecco, questa cosa. E poi hai trovato Matteo. E com'è stato l'incontro con Matteo? È stata un'esperienza tantrica. Perfetto. Tantrica. No, Matteo mi ha trovato per strada, così mi ha detto, no? Sei proprio te. Lui mi ha trovato. No, è stato, diciamo, per coincidenze varie, stavamo formando altri progetti, quelli anche più commerciale, per riempire il frigo, certo, beh, chiaro, ci vogliono anche quelli, siamo un po' vuoto, spesso capita, il mio è vuotissimo, vuotissimo. Anche io sono un po' in dieta, quindi no, e quindi ci siamo trovati a dover fare un lavoro più sul commerciale, no, anche commerciale tra virgolette, sì, no dico no, siamo trovati su un altro gruppo che è comunque un bel lavoro, insomma, con altri colleghi molto molto validi, però ci siamo trovati a fare discorsi sull'originalità, sulla musica propria, E quindi siamo trovati in questa, in questa idea qua di fare musica originale, e così ci siamo trovati. Ecco, ecco, ci siamo trovati di fare musica originale. Giustamente Gil mi fa, cenno, bisogna suonare. Suoniamo. Caro Matteo. Che cosa, Matteo? Cosa, cominciamo stasera? Sono 21 e 22. Sono a Tasi. Ma nel frattempo ho scritto. Ecco, hai scritto dei pezzi? Ho scritto, sto scrivendo e ovviamente insomma... Musica e parole scrivi, Matteo? Musica e parole, sì. Poi si collabora anche, nel certo. senso che poi ho avuto un'esperienza, insomma ho fatto un'esperienza di una scuola dove comunque ho conosciuto un sacco di altri ragazzi, quindi sono nate anche delle collaborazioni, insomma. Però, dopo ne parliamo della scuola. Sì, sì, sì, comunque si migliora. Certo, assolutamente. L'importante è scrivere continuamente, perché se ci si ferma un attimo si perde ogni tipo di... È il discorso che tu fai, io lo mi ricordo, cioè adesso, faremo un discorso ben più ampio, però una volta una gente che scriveva e continuava a scrivere in continuazione erano i Beatles. I Beatles scrivevano sempre, lavoravano sempre pedissequamente, giorno su giorno, dall'inizio della carriera fino al 1970. Continuamente hanno continuato a scrivere sempre. È una cosa bella. Sì. Adesso non si usa scrivere sempre. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Il frigo è vuoto. Esatto, il frigo è vuoto. Il frigo è vuoto. Suoniamo che adesso per riempire il frigo suoniamo qualcosa. E il pezzo si intitola So che cosa sei. Benissimo. Tu nella mia testa come mai sai solo fare guai? Tu con il tuo corpo cosa fai? Non dirmi che non sai quello che dentro provochi. Tu che non hai limiti, vorresti uccidere anche me. Tu, so che cosa sei. Sappi che so tenerti fuori dai pensieri miei. Tu, so che cosa sei. Come un serpente ti attorcigli e non mi molli mai. Tu, dimmi cosa sei. Se ti ritrovo ancora dentro i desideri miei. Tu, so che cosa sei. Vuoi la mia anima ma giuro che non l'avrai mai. Vieni silenziosa su di me, già sai quello che vuoi. Solo una camicia su di te che togli appena puoi. Tu vuoi tenermi in schiavitù, ma lo sai non gioco più. Il tuo veleno è niente ormai. Tu, so che cosa sei. Sappi che so tenerti fuori dai pensieri miei. Tu, so che cosa sei. Come un serpente ti attorcigli e non mi molli mai. Ma il cuore è carne, il cuore soffre. Ora tu come me soffrirai. Tu, so che cosa sei. Sappi che so tenerti fuori dai pensieri miei. Tu, so che cosa sei. Come un serpente ti attorcigli e non mi molli mai. Tu, dimmi cosa sei. Se ti ritrovo ancora dentro i desideri miei. Tu, so che cosa sei. Ora che posso usarti anch'io ti tengo un pugno ormai. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Eccoci qua. Benissimo, abbiamo sentito questo pezzo. Aveva questo andamento, non so se sia per Edu, molto molto funky brasiliano sul quel versante, assolutamente. Un po' incazzato però. No, perché incazzato, assolutamente. Ma insomma il testo è... No, il testo sì, il testo è arrabbiato, però musicalmente era molto funkeggiante. Sì, molto, anche, molto anche, black, anche la tua voce era molto funkeggiante. Sei molto predisposto al funky. Mi piace. Ti piace, mi ti piace. Come mai ti piace il funky? Wow, perché è il movimento del funky. Ma più che il funky, rhythm and blues. Mi piace quelle sonorità lì, molto, molto ritmiche, molto, molto scure, anche come suoni, no? Certo. Prendo spunto anche ogni tanto. Ci vorrebbero i fiati qua, sarebbe ideale. Bello. Sarebbe ideale con i fiati. Cosa dici, Edu? Costano troppo. Ah, costano, esatto. Perfetto. Sempre per un discorso di frigo economico. Vuoto. È sempre il discorso del frigo, c'è poco da fare. Dobbiamo sottolineare una cosa. Matteo ha portato una chitarra acustica e mentre Edu ha portato un meraviglioso basso che ha un bellissimo colore e ha un certo fascino, indubbiamente. Sì, sì. Semiacustico. Semiacustico, un grande Eastwood, un marchio molto bello, canadese. E il modello circa quello del Gretsch, però è un basso, diciamo, attuale di questi anni qua. Bello, anche visivamente meraviglioso, cari ascoltatori. Quando vedrete le fotografie che il sottoscritto farà nel nostro Facebook, sarete assolutamente soddisfatti. Ritorniamo al discorso del funky, queste tematiche funky che ci sono, tematiche funky e black music che ci sono nel disco, proprio fa parte del tuo DNA praticamente. Io non lo sapevo, però i rimandi sono stati quelli molto di questa così. Ma l'amore per il black music è nato suonando nella band oppure è nato a parte, al di là delle band? Suonando sicuramente, però poi ascoltando tanto, e gli ascolti cadono lì. Non so dirti scientificamente come mai, però l'amore è per quel mondo. Perché lì, ti dico, insomma, che in Italia è difficile che ci sia proprio delle band che le band rhythm and blues, ce ne sono poche in Italia. Mm-hmm. Non siamo un popolo di rhythm and blues, anche se giustamente una melodia perfetta, una musica perfetta, una musica che è madre di tante musiche. Certo. Però in Italia abbiamo poca capacità di rhythm and blues. Forse ho evoluto, facciamo un'analisi socio-psicologica. Vai, Matteo. È il mio pane, poi ne parliamo anche di questo. Sì. No, forse ho ereditato da mio papà, che amava proprio il gospel. Mio papà è un vocione, Giorgio, caro. Lo salutiamo. È un vocione basso. Ma secondo me poteva fare più strada di me. Ah, ho capito. quindi ti ha influito praticamente. Sì, e lui so che è amante del gospel, quindi tutta la musica. Poi ha fatto altro, nel senso che poi canta anche lirico con basso, col coro Città di Portoguaro. Va bene. Però penso di aver ereditato da lì. Il primo Armstrong. L'ho sentito lì, Nat King Cole, c'erano questi vinili che giravano a casa mia, che adesso sono a casa mia, ovviamente. Si sono trasferiti. Non più a casa sua, li ho rubati. Sono trasferiti. E quindi penso se arrivi da là. A proposito di questo, salutiamo un grande cultore del gospel, che è Agostino Spolaore, che arriverà giovedì come conduttore, è un grande amante del gospel, sicuramente ti avrà sentito e sarà molto soddisfatto di quello che hai detto. E salutiamo due persone importantissime, uno è il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che stasera ti ha voluto qua, e lo ringraziamo, e salutiamo anche Simone Chivilò, un grande amico, che stasera non è potuto venire, però ti sentirà sicuramente Matteo, nell'aria anche lui. Nell'aria, ma Simone sente tutto. Esattamente, Simone sente tutto quanto. Bene, adesso parliamo di una cosa importante. Tu hai fatto parte, sei entrato nell'estate del 2011, sei entrato e sei ammesso al CET, il mitico CET di Mogol. Di Mogol, sì. Che esperienza è stata? Allora, la cosa buffa è che è venuta parallelamente all'uscita del disco. Ah, quindi il disco è uscito nel 2011. Quindi. L'estate sono stato preso al CET, quindi a casa mi usciva il disco e tu eri e io al ero al CET. Non potevi promuoverlo. La cosa più bella è che al CET si va a mettersi in discussione da testa ai piedi. Esattamente. E quindi è come aver fatto appena uscire un disco, che comunque il disco era fatto, se vuoi, distinto. Ecco. Non c'erano studi, insomma. Poi anche gli arrangiamenti li ho curati io, insomma, con la band, insomma, li abbiamo fatti uscire in casa. Certo, ecco, quindi tante idee. Una produzione casalinga, esatto, tra virgolette. Tante idee, però soprattutto tanto istinto, ecco. E quindi il set è stato, io giravo per il, non so se sai, no, ma spiega un momento ai nostri ascoltatori cos'è il set, come si costruisce. È una scuola che ha costruito, che ha fatto Mogol a fianco a casa sua, certo, e è inserita in questa bosco, in questo parco meraviglioso vicino, è a Toscolano, vicino Terni, ed è in mezzo alla verde, natura, insomma. E io giravo, dopo le lezioni, giravo come uno zombie per i giardini del CET. Infatti gli amici che ho trovato lì, insomma, ancora mi prendono in giro, perché per me è stata una bella, sana, però messa in discussione, anche una martellata, nel senso che ho dovuto forse farlo prima del disco, però qui forse non si può, insomma, diciamo che è stata una bella messa in discussione. Mm-hmm. Quindi giravo come, no? Ogni lezione era un macigno, insomma, perché capisci bene che, insomma, hai un disco che esce e tu sei là, anzi è uscito, e lì l'ho fatto sentire, certo, certo, col maestro Giuseppe Barbera, tu hai studiato composizione là. Sì, la prima volta composizione, poi mi hanno richiamato e ho fatto da assistente il corso autori, quindi anche il corso per i testi, quindi sei stato promosso assistente, sì, il corso, sì, autori, sì, diciamo che sì, ho trovato casa, ecco. È trovato casa. E col maestro Barbera, che è il pianista arrangiatore, insomma, per Arisa, sì, quindi lavora con Arisa, e lui mi ha dato subito tanta stima, però da buon insegnante, insomma, ha scardinato tante cose che ormai erano già incise, e quindi non c'era più tempo, insomma, per andare a... però va bene così, la vita è così, ecco. Quindi è arrivato, è stato buttato fuori, gli ho detto ora puoi uscire, e è stata una bella esperienza. E l'hai portato in giro dopo il CET, l'hai portato in giro il disco praticamente? Sì, sì, c'è stata tutta l'estate di concerti. E poi, come ti dicevo, c'è stato un momento in cui, insomma, ho detto adesso voglio, dopo il CET, appunto, dopo il CET, perché poi sotto Natale sono rientrato in Umbria e ho fatto la scuola per autori con Anastasi, che è l'autore che scrive, che ha scritto i pezzi La Notte, sì, Sincerità, eccetera, eccetera. Tutto per Elisa, Arisa, sì. E quindi ho dovuto proprio dedicarmi a un po', insomma, lo studio, ecco, della scrittura, ecco, quindi sia la composizione che i testi, e quindi mi sono preso involontariamente una pausa, e quindi adesso, dopo un po' dopo un anno quasi di cose scritte, sei pronto? Ho del materiale. Sei pronto per fare qualcosa? Vediamo di nuovo. Cosa succede. Insomma, intanto siamo qua. Ha del materiale che Edu conosce già? Oppure conosce già, esatto. L'avete già provato? Sto lavorando con lui e con altri. Insomma, vediamo un EP. Vorrei fare un EP, una demo. Insomma, ma un EP che rispetto a ora puoi uscire. È diverso musicalmente o è sulla strada di questo, del disco precedente? Ma stiamo lavorando. Stiate lavorando. Ecco, i suoni... Lui anche adesso sta lavorando Edu, sta mettendo, sì, a posto, sì, il basso. I musicisti hanno una tecnica, sciogliere le dita è così o una cosa? Esatto, genere. Sì, sì. Perché teniamo... il musicista non può star fermo. No, Il cantautore sì, perché deve parlare al microfono. Deve parlare. Il musicista deve muovere le mani. Esatto, deve muovere continuamente le mani. Esattamente, è proprio così. Ma è bello che sia così, è positivo secondo me. Fa parte dell'essere musicista. Dimmi, sì, tu che sei un cantautore musicista. Sì, no, è la sonorità che sto cercando, è quella molto, molto scarna, molto sì pop, sì... Ma pop, musica cantautorale, il pop però si raguva un po' tutto. Esatto. Sto cercando, insomma, di creare delle sonorità, insomma, anche elettriche, no? Bene, bene, cosa positiva. Però bisogna stare attenti a non mettere troppo. No, ecco, troppa carne a fuoco. Cercare il proprio mondo, la propria identità, quindi è un lavoro non da poco, insomma. Quindi abbiamo bisogno noi cantautori di gente esperta. Come lui. Esatto. Esattamente. Allora, a proposito di gente esperta, adesso sentiamo la traccia 4, hai scelto Silenzio. Sì. La sentiamo e poi la spieghi, va bene? Va bene. Ok. Grazie. Penso, non so cosa, cerco tracce di me. Sento freddo, ma inverno non è. Prendo tempo, ma non so decidere. dentro. I sogni miei dentro, io mi ci perderei e ad un tratto mi sveglio per terra, il mio cane mi crede un po' matto ed io cerco il silenzio, lo trovo anche spesso tra tutto il caos che c'è. Ascolto il silenzio, la voce che ho dentro, se no non capisco cos'è. Più faccio silenzio, più sono contento, si libera spazio e io respiro fretta, tutto scappa da me. Ho fretta di vivere, ma voglio sia bello come. E non è vita senza silenzio, troppe voci non dicono niente. Io guardo la luce, non parla ma dice che intorno di spazio ce n'è. Mi faccio coraggio e scrocco un passaggio al vento che passa e che va, e vedo la pace che posso e mi piace, perché ha bisogno di me, ci sto. Silenzio per me, si riempie di musica, si prova, prova il silenzio, ti faccio un regalo, faccio silenzio e ti ascolto. Cerco il silenzio, lo trovo anche spesso tra tutto il caos che c'è. Ascolto il silenzio, la voce che ho dentro, se no non capisco cos'è. Più faccio silenzio, più sono contento, si libera spazio ed io respiro. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Sì, Blue Time stasera con Matteo ed Edu. Parliamo un momento del significato di questo pezzo che abbiamo sentito qualche secondo fa. Silenzio. Silenzio, silenzio. Quando ho scritto questo testo era un momento in cui tutti sanno. Tutti sanno di tutto, tutti sanno consigliare, tutti sanno... Tu volevi avevo silenzio. Avevo proprio bisogno di silenzio, di staccare la spina. Esatto, di silenzio, di tempo per me, quindi... E quindi è venuto questo testo. Mm-hmm. E a volte sembrava quasi che il cane mi capisse di più. E infatti nel testo c'è un momento in cui mi sono trovato disteso, no, a cercare un po' di pace e vedere sto cane che ti vedeva, ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ti faceva, sì. Il mio cane. E una cosa che dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, che Matteo ha scritto tutti i pezzi e ha musicato tutti i pezzi da solo. Mm-hmm. Un Mike Oldfield di Portoguaro, sì. Praticamente. Dino Altri. Ha fatto tutto da solo. Mm-hmm. E non è stata una cosa molto semplice. No. Assolutamente. No, perché da soli è complicato. Insomma. È complicato. No, c'era un sacco di insomma, la band comunque. Sì, la band c'era, però. Insomma, anche lo studio dell'Altra Acoustic, lo studio di Pordenone dove ho registrato, insomma. Ti ha dato una mano. Che il saluto Federico Piccini. Sì, insomma, è stata una bella collaborazione, ecco, non ero solo, insomma. Però le idee, sì, ecco, le idee, lo spunto veniva da me, insomma, ecco. Dobbiamo sottolineare una cosa, che chiaramente Matteo non è un professionista della musica, fa ben altre cose, e cose molto importanti che forse hanno influenzato, soprattutto nei testi. Vero Matteo, è così? Io sono psicomotricista, e quindi lavoro con i bambini, con i ragazzi, comunque sia... Con dalla parte più terapeutica, se certo. vogliamo, ma anche educativa, insomma, quindi è un'attività che porta via molto parecchio. Molto tempo e energie. E infatti, insomma, in quest'anno tra chat e psicomotricità e bambini, diciamo, hai avuto poco tempo. Ho avuto poco tempo e mi sono dedicato soprattutto a scrivere, quindi c'è stata una pausa di live, ecco, quindi, ma come tutti i grandi sogni, a volte bussano forte. Sì, giustamente Matteo prima di andare in trasmissione eravamo fuori in cortile, mi ha fatto segno, mi bussa sempre qua sulla spalla, sì, è una cosa sì, che bussa in continuazione, perché la musica bussa sempre. Ho provato un'esperienza, lo dice anche lui. Dimmi. Un'esperienza strana che non avevo mai provato, di ansia proprio, cioè trovarmi con i bambini, insomma, a lavorare, che è un lavoro bellissimo, che dà un è difficilissimo. Sacco di soddisfazioni e comunque sono ancora in formazione, quindi non finisce mai, di quei lavori dove dici sì, sei psicomotricista, ma non sei arrivato mai, certo. Ecco, perché mi sono proprio trovato veramente a provare anche fisicamente proprio un'ansia, una paura di vedere che questo sogno, ciao, cioè se ne va. E quindi sono in questa fase, sto provando ad allentare un po' col lavoro e a accelerare un po' con la musica. Perché se no, quando lo si fa? Lo fai adesso che sei in ferie. Esatto. Ho fatto questa scelta, insomma, di tenermi anche, tra virgolette, questa parte, insomma, di lavoro, ecco, che non è. La cosa bella è che mi sta dando tanto dal punto di vista dei contenuti, perché comunque è un lavoro, io lo chiamo lavoro esperienza, nel senso che sei a contatto con i problemi. Con le difficoltà che sono di tutti, certo. Ma è una pratica dell'ascolto, viene definita, insomma. Quindi ascoltando si conoscono tante storie, e quindi conoscendo tante storie si ha qualcosa da dire. Si costruiscono tante storie, allora. Si ha qualcosa da dire e dico, non sia mai che questo lavoro abbia fatto... Parliamo di inconscio, dottor Edu Erling, non sia mai che l'inconscio mi abbia mandato a fare questa formazione, questo lavoro, forse anche per permettermi di fare musica con un contenuto, non lo so, io ogni tanto ci penso un po' ridacchio, un po' buffa questa cosa, però mi piace pensare così, nel senso che adesso questo sogno è diventato proprio gigante. E come dicevi tu, è un gufo qui in parte che mi dice: sì. Oh, allora Femo, Demo, partiamo. Io sono veneto, quindi Femo, Demo. E quindi ecco, sono in questa fase qua. Molto sereno, però. E a volte, quando le porte non si aprono, viene un po' di paura. Perché... Lo so, ma bisogna sempre tentare di farle aprire. Certo. Continuamente, è la musica dal vivo è inedita, come parlava giustamente Edu, certo. Prima è difficile aprire le porte, però si deve tentare continuamente. L'unico modo per tentare continuamente è suonare, farsi sentire. Sì. Tu mi hai detto giustamente prima di cominciare la trasmissione, le mie ferie sono suonare, è una bella cosa questa. Fare le ferie suonando. Vado anche 2 giorni. Sì, vai 2 giorni di riposo, vai. Però suonare la maggior parte delle tue ferie è una cosa molto bella, secondo me. Perché la musica è al di là della stanchezza, è al di là del riposo. Suonando ti riposi, posso dire questo. Certo, certo. E poi il cantare. È il cantare. Anche lì c'è qualcosa di grossino. Ecco, non solo lo scrivere che è arrivato dopo, ma proprio il cantare è una cosa che proprio non riesco a fare meno. Infatti l'anno fermo è stato duretto. Duretto. Come imposterai o imposti i live con Edu? Lo sto sfruttando, stiamo provando a lavorare in trio. Cioè l'altro terzo chi è? È Marco Vattovani, è un batterista di Trieste, molto, molto bravo, che corrisponde ai suoni, diciamo, e alla pasta sonora che sto cercando. Nera, praticamente. Charleston e piatti molto grossi, molto rumorosi, e rullanti, no, spessi, quindi suoni come piacciono a me, alla Steve Jordan, quindi al soul, al soul, musica black, insomma, molto, la musica black, molto cicciona, come piace a me. Beh, di pancia. Quindi lui attua le tue convinzioni suonando, non dico che suoni black, però... Edu che piace, però, che piace, sì, dai. Come si dice in tedesco, che piace, cioè ti piace enormemente suonare black. Sì, sì, certo. Come mai, Edu? Sì, perché è nel tuo DNA. Beh, quello sì, assolutamente. In Brasile c'è molta... diciamo la musica molto ritmica, no? Essendo lo stesso samba in un ritmo binario, certo, molto saltellante, no? Scritto in sedicesimi, si somiglia molto al funk, no? Anche nella storia, nella genesi del funk c'è molto di musica latina, e probabilmente questo è il contatto, no? Diretto della ritmica brasiliana col funk nordamericano. Quindi sei nato a nozze con Matteo, che ama particolarmente le cose. Esattamente. Quindi un connubio perfetto, Matteo. Ma cosa ti piace di me, Edu? Perché non me l'ha mai... tipo non dice niente. Lo dici in diretta adesso. Ma, però son quelle persone che tu... lui c'è. Quindi ti fa capire, capito? Viene, c'è e ti fa capire la sua presenza. Per me ma è, quando, insomma, è un musicistone, capito? Esatto, chiaramente. Tu hai scritto un pezzo. Stica. Tu hai scritto un pezzo e proponi a Edu la versione di questo pezzo. Nasce praticamente? Io registro, ho uno studietto, mi sono fatto uno studietto a casa, registro chitarra e voce. Ho capito, poi fai acustica sentire. Voce, perché mi hanno detto che Maestro Barbera, che è un luminare, che per è luminare, mi ha illuminato dicendomi, io non lo sapevo, o meglio pensavo di saperlo, ma insomma mi ha confermato, insomma, che il mio punto forza, se ce n'è uno, è quello del chitarra e voce. Quindi tutto quello che poi, quindi questo un po' groove, insomma, sì, questo modo di suonare, lui, detto lui, che non sia mai che mi cito io cose, detto, un po' particolare, ecco, che non forse l'ha detto adesso, lui, quindi che sì, potete chiamarlo, casomai vi do il numero. adesso forse manca, dopo Alex Britti, Pino Daniele, Alex Britti, forse manca, lo dico a tutte le etichette presenti, forse manca, no, qualcuno che suona, magari che ha un groove di quel genere, sì, che comunque chitarrista. Ecco, adesso sono tutti interpreti, stanno finendo i musicisti cantanti, è vero, ecco. E dopo Alex Britti adesso non mi vengono in mente, non vorrei fare gaffe bruttissime, ma ultimamente, beh, c'è Gualazzi che è un pianista, non suona chitarra, Cremonini suona un po' tutto, però insomma forse più pianista. È un grande autore Cremonini. Sì, sì, molto bravo. Al di là della Vespa 50, tutti ricordano, lui è un grande autore. Si cresce, È cresciuto da molto. Nell'aria, poi ci si evolve. Certo, perché no? A proposito di crescere, suoniamo che cosa adesso? Facciamo una cover. Di cosa? Doris Troy è un pezzo che ci ha visti subito amici. Quando me l'ha proposto ci siamo trovati. Sempre per cose più commerciali, diciamo, con altri musicisti. È un pezzo di Doris Troy, che è un pezzo degli anni 60, ed è questa tradizione black, no? Quindi l'autore te lo ricordi? Sai che no, l'autore te lo ricordi tu, Edo? No, andiamo, è un pezzo degli anni 60, black, molto black. Beh, comunque è storico, ecco. Beh, lo sentiamo. E diciamo che queste sonorità molto vecchie che a me piacciono, no? Anche un po' un lato un po' ironico, come a risentirlo adesso. Farlo dal vivo è bello, perché mi ricorda un po' i suoni dei miei genitori. Certo, ecco. Certo. E lo abbiamo pensato così, anche con questa ritmica che ha nell'arrangiamento, che è molto lenta, no? Che una volta si ballava più lenti, sì, no? Come no? Ed era comunque incalzante, ma era una ritmica molto, molto soft, sì, avvolgente e molto sensuale, ecco, anche quello. E questa è la cosa. Chitarra e basso stasera, chitarra e basso e voce di Matteo. I felt so he love with you. I found out how good it feels to have your love. Say you will be my forever and away. Just one look and I knew who that you. Well, my only one, I thought I was dreaming, but it was wrong, and I'm gonna keep on screaming until I'm gonna make you my own. Say you see, I really care. Without you, you have nothing. Just one look, and I knew I got you someday. Just one look, just wanna do. Just one look, just wanna do. Just one look, just wanna do. Just one look, Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Sì, un riff molto famoso. Adesso non ricordo l'autore, ma cari ascoltatori, fra qualche minuto, con le vie moderne che abbiamo, cerchiamo l'autore, così parleremo più ampiamente. In ogni caso, abbiamo notato, io, Gil, qui in studio, abbiamo notato l'uso del falsetto da parte di Matteo. Hai visto? Perché secondo me a me piace molto il falsetto, e l'ho ripetuto tante volte quando, quando le band o i cantautori vengono a suonare, usano il falsetto, e secondo me il falsetto è un qualcosa di piacevole e di difficoltoso nello stesso tempo. Coldplay, meglio, il cantante dei Coldplay, sì, lo usa spesso, ne ha fatto un suono suo, no? A volte sembra quasi stonato, però sì, è bello proprio perché è suo, cioè è suo, ha creato è una, cosa... una sua etichetta. E poi ho questo, questo difetto che sono un John Mayeriano, cioè? Io adoro John Mayer. Ah. Nel senso che proprio mi piace quel tipo di pop lì, no? E anche lui usa, sì, usa questa è difficile questa giocare parte. Quel falsetto, infatti non riuscivo tanto le prime volte. Però è divertente quando poi riesci, anche studiando un po' la tonalità giusta, insomma, a beccarlo è molto divertente. Esatto, a beccarlo è molto, sì, divertente. Le fai altre cover nei vostri spettacoli o solo questa? Sì, no, diciamo che sì, dal punto di vista dell'aspetto più commerciale, appunto, bisogna andare un po', purtroppo, salvare capre e cavoli. Cose, esatto, che possano, la gente possa conoscere, quindi i classici, Marvin Gaye. Hai scelto un autore di grande esatto, spessore, Marvin Gaye. E altri che adesso, ovviamente... Marvin Gaye è uno dei tuoi autori preferiti. Sì, sì, tutti i pezzi... A proposito di autori preferiti, adesso... di solito lo facciamo su Rock Wave, ma anche in Blue Time Live. Facciamo una piccola domandina. Ci sono tre domandine semplici. Che ovviamente non potevi dirmi prima. Chiaramente no, se no che domanda è? I dischi che vorresti portare su un'isola deserta? A tuo piacimento. C'è una regola scritta da tanto tempo qua in radio, quindi a Blue Time Live o a Rock Wave. Non si può copiare. Cioè, chi sceglie i pezzi che sceglie Edu, li può scegliere Matteo, chiaramente. Bello. Facciamo, visto che abbiamo tempo, facciamo quattro dischi a testa. Uno alla volta, lo diciamo tutti insieme. No, uno alla volta, uno prima fai la tua quartina, o te o viceversa, Edu, la stessa cosa. Allora, Continuum di John Mayer. Tu ami particolarmente questo musicista, l'abbiamo citato prima. È il mio mentore. Il tuo mentore. Non è però famosissimo nel nostro paese, è più famoso in Inghilterra e negli Stati Uniti. Sì, sì, infatti di sue lives... C'è un gruppo adesso italiano che si è online, si sta muovendo per portarlo in Italia, ma anche Alicia Keys ha fatto una data a Torino e basta, quindi insomma è comunque un genere che è più molto americano. Sì. E le uniche tournée europee sono Londra, sì, chiaramente, in Inghilterra, Copenaghen massimo, o in Germania o in Olanda e basta, quindi sicuramente quel disco lì, assolutamente, perché ti ha influenzato, non da poco. Sì, molto, molto. Questa fusione, eccolo. Ecco, vedi, l'ha trovato. Pezzone. Ecco, c'è Steve Jordan alla batteria. È un grandissimo batterista. Tanta roba. E ecco, questo è il mio sogno. Riuscire a fare un pop, pezzo simile. Un pop... di alta classe. Un pop un po'... No, un po' suonato. Un po' nero, un po' però. Meno un po' black. Standard... Del pop che si sente in radio, insomma, ecco. Però non lo so. Bisogna provare. Magari una cazzata. Bisogna provare. Però, insomma, mi piace questo mondo qua. I suoni sono molto asciutti. Lui ha una voce particolare, quindi sicuramente ha... E poi suona da paura. Certo. E poi ha questi suoni che sono proprio ciccioni. Io l'ho visto anche dal vivo a Birmingham. Ma sei stato in Inghilterra? Sì, sì, sì, l'ho visto dal vivo a Birmingham. Ed è pazzesco come nel live hanno gli stessi suoni del disco. Ah, perfetto. Cioè, tutto molto ciccione. Sembrava di essere in una palla di gomma. Spieghiamo per i non addetti, che cosa vuol dire ciccione? Edu, aiutami. Musicalmente parlando. Completo, pieno. Sono pieno, ricche di basse frequenze molto profonde, senza troppo dettaglio sulle medie alte. Ecco, questa è la definizione tecnica di ciccione. Antidigitale, ma diciamo più valvolare. Meno digitale. Leggera distorsione da valvola o da nastro. Che è diverso della distorsione da tecnica. Quella da valvolare è una bella distorsione. Esatto, esatto. Quindi, più calda. Esatto, ma anche il suono che uno ha in memoria, come i dischi caldi, no? Quindi, non c'è, è una cosa di psicoacustica. Certo, ho capito. Richiama quelle cose lì, quindi insomma, ci riscalda il cuore. Questo pezzo qua, come Doris Troy, lo senti che ha questo andamento, portamento molto slow, molto non corre mai, no, anzi sembra no. che siano quasi più indietro. Sì, no? Sì. Cioè, sembra rallentare, rallentare. È molto sensuale. Sì, certamente. Lo faceva molti anni fa, ballato. Molto tempo fa, nel 1959, 58-59, anche un certo personaggio che si chiama Elvis Presley ha cominciato a fare queste cose. Faceva rock and roll, ma anche lui si muoveva in una certa maniera. Era Elvis. Secondo me è partito tutto da lui. Da Elvis è partito tutto. Chiaramente il soul c'era, la black music, ma tutto è partito da Elvis. Elvis ha praticamente aperto le strade a tutto quanto, a mio parere. Non ero nato. E lo so che non eri nato, però Elvis è stato il primogenito di tutto, o almeno uno dei tanti, uno dei pochissimi che è iniziato da lui. Provo a fare. Dicono Elvis, dicono Bob Dylan, dicono i Beatles, i tre capostipiti musicali. I Beatles stessi hanno parlato di Elvis, però anche loro. Certo, sì. Quindi, sì. Proseguiamo, Matteo, dopo di questo pezzo. Questo titolo, scusate. Però posso pensarci un attimo. Vabbè, passiamo la palla ai due. Allora. Sting, sicuramente Sting, devo pensare. Ma lo Sting quale? Dei Police o lo Sting solista? No, Sting solista. Quello vicino al funk e al jazz. Addio, Matteo. No, Edu, dai. Perché? Tu preferisci i Police? Police. Beh, facciamo la quartina di Edu. Tutti e due, dai. Ecco. Police e anche uno. No, beh, un secondo, andiamo per ordine, perché dopo ti voglio interrogare. Vai, Edu. È difficile, quattro dischi. Allora, difficile. Un disco di Klaus Ogerman che si chiama Cityscape. Chi è Klaus? Klaus Ogerman è un grande arrangiatore statunitense, credo di origine tedesca, questo cognome. E ha lavorato come arrangiatore per molti musicisti, e compreso João Gilberto, Tom Jobim, tanti brasiliani, tanti statunitensi, insomma tanta gente, e ha buttato fuori dei dischi suoi, tra cui questo Cityscape, che è un po' una rarità, e tra gli ospiti c'è anche Michael Brecker, un disco ho capito. Profondamente complesso armonicamente, allo stesso tempo è meditativo, perché riesce con i suoi archi famosi, no? La quinta ottava dei violini, a creare degli armonici pazzeschi, questo Klaus Ogerman. Famoso anche per molti arrangiamenti, appunto, di João Gilberto. Quindi musica brasiliana, praticamente. Esatto. Il secondo disco è il disco di... Non so, vado avanti, vogliamo... No, vai. Ecco, Elis e Tom è uno dei dischi più belli, secondo me, della storia della discografia. Ecco, questo potrebbe essere Ogerman. Può darsi, sì. Ha cercato G, l'ha trovato. Non sento la quinta ottava dei violini perché la cuffia è un po' scura, però insomma, eccolo qua. È lui. È la prima volta che citiamo questo musicista. In tanti anni che facciamo Rockway o Blue Time Live, l'abbiamo mai citato. Bene, una cosa positiva. Poi collocherei appunto questo disco Elis e Tom, è uno dei dischi più importanti della musica brasiliana. È una specie di piccolo songbook di Tom Jobim, interpretato dalla grande Elis Regina, che è una delle voci più belle della musica brasiliana. Della musica brasiliana, dove hanno interpretato tra tanti pezzi molto famosi, Águas de Março. Ecco. Ci siamo. Ecco. E poi il terzo pezzo, per il terzo disco è difficile, comincia a stringere, devo scegliere altri due. Allora, Kind of Blues di Miles Davis. Vedi, questo è stato un pezzo che c'è, cioè un disco, un capostipite, hai scelto Miles Davis. Esatto, perché è un disco che ti mette pace con la musica, oppure anche in guerra con la musica, nel certo, senso che dipende dai punti di vista. Sì. Esatto, ti fa anche pensare seriamente sulla musica, sulla cosa astratta della musica, sul modale, sul tonale, perché è un disco completo di tutto. Insomma. Poi, non lo so, collocherei anche Gaucho degli Steely Dan. bene, una bella scelta. Era un tempo, parecchio tempo che nessuno sceglieva gli Steely Dan. E Gaucho è un grande disco degli Steely Dan. Gli Steely Dan avevano quella caratteristica di amalgamare certe sonorità. Erano molto bravi ad amalgamare, ad arrangiare, a trovare un quid molto particolare. Esatto. Unico. Unico, perché comunque riuscivano a dare... Ecco. Riuscivano a dare questa apparente leggerezza a tutti i pezzi, no? E pur facendo anche loro una cosa molto complessa. Esattamente. In genere mi attira molto l'apparente semplicità in tutti questi dischi che ho citato, no? C'è questo punto comune. È la grande costruzione, però. Apparente, sì, leggerezza, vedi qua. Ma grandissimi artisti, Steely Dan. Sì. Grandiosi. Questi sono i quattro di una lunga serie. Sì. Adesso, un modo caro... come un altro per dirmi che sono un ignorante. No, perché lui ha citato un modo gentile per dirti: venuto dal Brasile, spesso volentieri ha citato due, due musicisti brasiliani. Matteo, ce ne sono altri due che devi citare. Io sono giovane, sono di un'altra. Ma è mica vecchio neanche lui. Però io allora faccio lo spandone e cito Positivity dell'Incognito. Ah, bene. Ciappa. Ottimo. Ciappa, bene. Che avrà sicuramente. Storge il naso. No. E poi come quarto? È un bel ricordo. E come quarto qualcosa di Stevie Wonder sicuramente. Adesso beh, Stevie Wonder un toto facciamo. Sì, sì, sì. Tutto. Compilation di la raccolta di Stevie. Le raccolte di Stevie, cioè Stevie come, sicuramente. Raccolte, i dischi ufficiali, perché le raccolte secondo me no, sono nel senso per prendere sì, tutto sì, il pacchetto, ho capito, diciamo. Sono molto riduttive le raccolte, sì. Le dischi ufficiali sono migliori secondo me. Sì, Stevie Wonder rimane un toto, grande musicista Stevie Mamma Wonder. Mia. Ancora adesso è sempre stato un grande musicista. Percorso tanti momenti, ma sempre positivi. Mamma mia, tanta roba. Deve venire in Italia. Dicono che venga in Italia a fine dell'anno. Dicono, non si sa. Mamma mia, è qua. Che cioè piange. È un classico. Che piange. Benissimo, abbiamo scelto i musicisti preferiti dei nostri due artisti di stasera. Adesso non so cosa ci sia in scaletta. Mi pare che forse c'è da disco, da sentire un pezzo da disco. Cosa hai scelto adesso, Matteo? Sole senza luce. Sole senza luce. Che è un pezzo. Anche questo. Sono legato a questo pezzo. Perché sei legato a questo? Perché. Intanto l'ho portato a un concorso che mentre usciva il disco abbiamo fatto questo concorso a Udine dagli amici della Groove Factory che è una scuola bellissima a Udine che ha pensato quell'anno, quindi nel 2011, sì, ha fatto un Groove Factory Contest ed è un bellissimo contest nel senso che era pensato con delle registrazioni che poi andavano online su YouTube, quindi la gente poteva votare da casa. Ho capito. È veramente fatto bene. E sono arrivato in finale e poi sono arrivato terzo o secondo, non mi ricordo. Ha vinto una band che scriveva anche loro in italiano, non mi ricordo il nome. Insomma. Questo pezzo l'hai presentato? Il pezzo l'ho portato lì. L'hai suonato? Sì, sì, con la band. Con la band che li ricordo, Romolo Del Franco al basso, Manuel Verardo alla chitarra e Carlo Badanai. Che è il batterista dei Pentacles, che è un'altra band portoghese molto, molto bravi, anzi pordenonese. E quindi è un pezzo che l'ho suonato tanto, ecco, e quindi ci sono legato. Il testo parla di un sole senza luce, e quindi a volte la mancanza di qualcuno o comunque la mancanza di qualcosa ci fa vedere un sole senza luce. Mi ricordo di una mattina che mi sono svegliato e c'era anche un po' in questi giorni che c'è un po' di nebbia, di umidità, da calore. Ecco, si vede questa palla, avevo questa immagine di questa palla offuscata, eppure c'era, no? E sembrava non ci fosse luce, in realtà magari facendo un po' di pulizia si trova. Certo. Sentiamolo il pezzo. Sole senza luce, che strano cielo, pioverà. Grande la mia sete di ridere con chi non è qua. Oltre al finestrino, quell'acqua nuova che ci cambierà. Scusa se dentro me c'è confusione, perché quando rido, quando grido, questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me. Non è un'illusione cercare la felicità. Nel buio dei miei occhi a non vederla, ma è là. A volte una lacrima che grande forza sprigionerà. passasse dentro me. C'è confusione perché quando rido, quando grido, questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me. Scusa se dentro me c'è confusione perché quando rido, quando grido, questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me. Polvere d'amore nasce con il sole e questo vuoto strano se ne andrà, passeggiando al mare libero di fare, anche se domani c'è un nuovo cielo e tu non sei qua. Quando grido, questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Allora Matteo, cosa abbiamo sentito adesso? Il titolo del pezzo? Sole senza luce. Sole senza luce, che musicalmente c'è un po' di funky blues che si coincidono, si mettono assieme. Sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Questa tua tendenza, giusta tendenza, amore, il DNA che continua a venire fuori, chiaramente. Sì. È una bella cosa, una cosa positiva. Sì. In Italia, giustamente tu hai detto, c'è solo Alex Britti o Pino Daniele che vanno avanti su questo genere, su questo filone. Mm-hmm. Adesso un po' meno. All'inizio sì. Non me ne vengono in mente di più moderni. Ovviamente nella musica pop, nel senso, nella musica pop, sì. Assolutamente nella musica pop. Non l'ha inteso come un cantautore che suona anche bene lo strumento. Beh, sì, sì, Pino Daniele assolutamente sì, Alex Britti lo stesso. In quel filone lì. Sì, no? Non ce ne sono tanti in Italia. Non sappiamo. No, perché beh, Alex Britti forse uno dei più grandi chitarristi sì, blues italiani, bravissimo, siamo, bravissimo. Siamo a livelli. Tu cosa dici? Non sei d'accordo? Ma tira fuori le cose allora. Non sei che sia bravo chitarrista, boh, sì. Chitarrista blues, ci sono dei no, non blues nel senso Italia, proprio di blues. Talmente bravi che è difficile parlare di Britti. Lui sicuramente ha saputo mettere assieme molte cose. La capacità anche di salire sul palco. Sì, anche di comporre canzoni molto dirette, insomma, tanto di cappello, però chitarristi blues in Italia sono dei bravissimi. Sì, ma c'è un altro molto bravo che Max, cioè un altro bassista, a proprio di bassista, Bascazè, che è un grosso bassista. Esatto, ah, lui sì, è cioè molto bravo, sì, sì. Ha fatto la sua gavetta in Belgio. Ecco, per forse un sacco è di rimasto anni. Quel cantautorato lì da Bersani, da Magazzè, Niccolò Fabi. Niccolò Fabi è molto bravo anche lui. Sì, sono un po' si è perso un Samuele po'. Samuele Bersani non è bravo come musicista, ma è bravo come autore, secondo me. Sì, è un grande autore. Sì, sì. Mentre qual era l'ultimo pezzo che cercavi? Dopo una serata abbiamo fatto una serata con una cantante americana e lui gli è partita questo motivetto di io ho un periodo che va avanti da un mese che ogni giorno devo ascoltare questo pezzo che era Chicco Freak di Bersani, è entrato. Ma lui è molto bravo, Bersani è molto bravo in pochi versi a dare un certo, una certa spettacolarità, una certa immagine, sì, in pochi versi, sì, riesci immediatamente a farti capire certe cose. Che io gli dicevo, ma perché pensavi di farlo come cover? No, lui mi diceva a fine serata, mi fa, ma come si chiama quel pezzo là di Bersani? E gli faccio, ma perché volevi farlo come cover per fare una serata? No, me ne frega niente, no, volevo solo sentirlo per me. Ma Samuele Bersani è molto bravo, lanciato da Lucio Dalla anche lui, come è stato lanciato Carboni da Lucio Dalla. È stato quello a cui Lucio Dalla ha detto, adesso devi monetizzare il dolore. Vero. Gli ha detto, e ha scritto quella famosa, come si chiama? Eccolo qua. L'ha trovato. Mi viene in mente il titolo adesso. Oggi mi mancava. Sì, un pezzo molto famoso di lui. Ha rifatto la Pausini. Sì, esattamente. Un pezzo famoso di Samuele. Giudizio universale. Esatto, Giudizio universale. Uno dei pezzi più belli di Samuele Bersani. Bello, bello. Un testo meraviglioso. E poi un altro cantautore lanciato a Lucio Dalla è stato Carboni stesso. Ah sì, che conosco molto poco. Fisico bestiale, tutto lo conoscono per il fisico bestiale. Sì, è un po' diverso da Bersani. Non è mai, è un altro genere, è un altro genere. In ogni caso, ritornando a Max Gazzè, un grande musicista, quello sì, possiamo dirlo. Sì. Suona molto bene il basso, tu sei un bassista. Suona molto bene il basso, poi un jazz bass, un Fender jazz bass come il mio. Bene, perfetto allora. Yeah. No, bravo, sì. Ed è aiutato dal fratello che gli scrive dei testi meravigliosi. Forte. Ah, il fratello che scrive. Sì. Ah, grazie. Scrive assieme. Loro sono capaci di scrivere. Li scrivono assieme. Fa parte è praticamente un'equipe. Lui e il fratello scrivono i pezzi. In ogni caso, un ottimo musicista. Bravo lo stesso. Bravo. Anche bravo nel live, soprattutto. Cioè. Tu l'hai visto qualche volta. Sì. Ha fatto anche cinema adesso. Ma ci sono bravi, in Italia ci sono parecchia gente brava, valida, caro Edu. Ah beh, sì, assolutamente. Che sa suonare bene. Sì, ma sa suonare, sa scrivere, c'è una musica bellissima in Italia. Una grande tradizione anche, no? Che a volte uno dice va avanti solo chi fa pop, però in effetti c'è molta gente che cura il proprio piccolo gruppo di ammiratori, di scambio musicale, fa della musica meravigliosa. Ti dicevo di Alex Britti perché l'ho visto un mese fa a Padova e ha fatto uno spettacolo qua, assieme ad altri, ha fatto uno spettacolo in piazza, a Prato della Valle, e ha fatto il suo set di 10, un quarto d'ora. Chitarra e voce ha entusiasmato. Beh, sì, molto bravo. Che è un grande musicista blues, bisogna vedere. No, il più grande? No, è il più grande. Tra i più grandi, però, più o meno. Però che, molto che valido, sia bravo anche a interpretare il blues, possiamo. Sì, ma c'è un gran tiro. Sì, c'è un gran tiro. Suono, è molto trascinante. Quello sì, quello non si toglie, no. Benissimo. Caro Matteo, adesso sei predisposto per suonare qualcosa oppure no? Cosa facciamo? Cosa fate? Cosa facciamo? Facciamo Senza Meta. Senza Meta. Che è un pezzo, è l'ultimo, uno degli ultimi. Che tu hai scritto? Sì. Perché è uno degli ultimi dal punto di vista di data praticamente? Sì, di data. E quindi è uno di questi pezzi che insomma vediamo che cosa nasce. Come diceva lui, bisogna andare avanti nella strada, nel senso che se non arriva delle cose, no? Dei sostegni, insomma, adesso l'obiettivo è fare questo EP, ecco. E questo potrebbe essere un pezzo da rientrare, bisogna lavorarci sull'arrangiamento, cioè, è ancora in fase embrionale, è uno degli ultimi pezzi del disco precedente che però dà l'alito, cioè si arriva con questo a una nuova dimensione praticamente, potrebbe essere così. Ecco, sul testo c'è un po' più diciamo di lavoro, di ricerca. Nel senso che qua forse viene fuori in questo brano viene fuori un po' il discorso che si faceva prima, no? Che facevo prima, dove mi raccontavo un po' di questo sogno, che siamo un po' una generazione che tra virgolette aspetta forse che accada qualcosa. Sogniamo, poi arriviamo a un certo punto in cui non ce la facciamo più a sognare e ne prendiamo in mano un altro, ne sogniamo un altro, e siamo un po' facciamo un po' fatica a prenderne uno e darci dentro. Non lo so da dove arrivi questa cosa, forse un po' di paura. Un po' di paura. Vedi che la mia vena un po' di analisi mi cade dappertutto. Una cosa. Però è una generazione, siamo un po' una generazione, noi 20 ottenni, sì, 30 anni. Sì, siamo una generazione ai giovani che aspettano. Che, esatto. Beh, adesso noi fra qualche secondo ho fatto una discussione l'altro giorno con un signore di 50 la mia età che mi ha detto signore di 50 forse meno, da poco in pensione dell'aeronautica, sì, che saluto, che tu conosci, lo saluto, che mi ha detto un po' incazzoso, che mi ha detto che noi giovani non ci buttiamo, non ci prendiamo lo spazio che meritiamo nelle pubbliche amministrazioni, insomma, non ci diamo da fare abbastanza, e ci sarà un motivo, non lo so. Io non sono d'accordo, nel senso che sono molto orgoglioso di alcuni, ovviamente, della mia fascia d'età. Non tutti sono, non si può generalizzare, no. Però un po' siamo un po' tenuti fermi, forse. E a volte la paura tiene un po' fermi a sognare e non riusciamo mai a beccarne uno che sia giusto. E poi anche arrivare alle mete non è certo così facile. E a volte viene voglia di scappare. Quindi lasciare il sogno lì e iniziarne un altro, tanto sognare gratis. Ah, chiaro. Quindi poi il frigo non c'entra. Però poi non si concretizza, esatto, poi non si concretizza, quindi la canzone e il testo era proprio per dire, bon, adesso volo più in alto. Ok, sentiamo allora. C'è qualcuno che è arrivato in radio. Avanti, prego. Siamo in diretta. Vai, vai. Succedono anche cose così. Ah, sì. È tutto in diretta. Vai, vai. Cosa avrò lasciato indietro mai di tanto serio? Forse un po' di cose ne vorrei. So che vivo troppo di ricordi e nostalgia. Il mio futuro dice dove sei. Cosa vorrei, cosa farei, non ho deciso mai. Un viaggio andata senza ritorno dove non so. Faccio sogni che vivrei ma che poi non vivo mai. Ci rinuncio e passo già ad un altro. Faccio sogni che vivrei ma poi non mi ascolto mai. Ci rinuncio e passo già ad un altro. Guardo fidanzate ormai sposate nelle foto, eppure a mania non smette mai. Scrivo dell'amore poi mi resta il cuore vuoto, e come una follia non smette mai. Cosa farò? Io non lo so, sempre confuso. Un viaggio solo, magari in volo, dietro un oblò. Faccio sogni che vivrei, ma poi non li ascolto mai. Ci rinuncio e passo già ad un altro. Faccio sogni che vivrei, ma poi non li ascolto mai. Ci rinuncio e passo già ad un altro. Senza meta in corsa, yeah. Più ci penso più son guai. E io stretto in una morsa, yeah. Ma ciò che cerco non c'è mai. Ora ho sonno e dormirò, poi domani un po' vedrò. Ora ho sonno e lascio il dubbio un altro. Faccio sogni che vivrei, ma che poi non vivo mai. Ora cambio e volerò più in alto. Faccio sogni che vivrei, ma che poi non vivo mai. Prendo in giro il mio destino e parto. Yeah. di festa in festa. Gli appuntamenti in Veneto. Gli appuntamenti in Veneto. Spettacoli, mostre, sagre ed eventi in Veneto. Alle 12.05 da lunedì a venerdì, in replica alle 17.05 e anche in podcast. Di festa in festa. Radio Veneto. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Secondo me il tuo maestro Giuseppe Barbera sarebbe rimasto contento da una melodia simile, perché è un pezzo molto melodioso, molto accattivante, molto ben fatto, sì. È un singolo potenziale a mio parere, sì. L'ho sentito così stasera. Sì, sì, sì. Mi è piaciuto molto, per te. Anche gli altri, ma questo particolarmente. Cosa dici, Edu? Aveva un'atmosfera giusta, un feeling, sì, giusto, non so, Edu. Certo, sì, molto bello, mi piace questo pezzo. È molto bello, è fatto bene. Lo conosco da poco, ma insomma, buono. Si potrebbe sviluppare, okay. Sì, sì. Matteo, come dici? Arrangiamento, cosa dici, Edu? Qua? Possiamo lavorare. Potete lavorare. Sta già in non pieno. Lo so, ti rispondo, non lo so. È un musicista, non lo so. Già, ci pensiamo. Già, ci perché pensiamo. Io vedi, ho bisogno di... Di stimoli, dai, dai, dai, andiamo, andiamo. E lui, non lo so. Ma lui deve gestire, deve sentire stai il momento calmo. Giusto. Bello. Mi è piaciuto. Beh, questo è veramente un pezzo. È la prima trainante. Volta che esce fuori dal mio PC. Penso che va giusto. Decisamente va. Vale 22:28, tutto in diretta, cari ascoltatori. Dunque, abbiamo parlato di questo disco che è uscito nel 2011, che è stato un disco fatto totalmente da te, costruito da te, musicato da te, con l'aiuto di qualcuno quando l'avete inciso praticamente. Certo. Le idee sono venute fuori lentamente, idee che tu avevi già negli anni precedenti, una specie di greatest hits, è brutto dire la parola di greatest hits, ma raccoglie i momenti più significativi, oppure no? Sì, Matteo. È rimasto tanto nel cassetto. È rimasto tanto nel esatto, cassetto? Nella speranza che qualcuno, no? Si spera sempre che qualcuno ti noti, che qualcuno... Nella radio serve anche questo. Sì, diciamo che avevano notato delle cose, forse un po' acerbe, però c'erano, e poi ho fatto la scelta di comunque pubblicarlo, farlo uscire online, ho fatto delle copie, che una ho visto che ce l'hai qui. Sì, no? Certo, ci hai inviato. Quindi ho fatto questa scelta qui, avrei potuto... Non lo so fare cosa, però avevo proprio voglia di farmi questo regalo, insomma, ecco, di farlo uscire senza tanto troppo fare, no, avere aspettative. L'ho fatto proprio per me e ci sta, perché è il primo lavoro e adesso è il momento di lavorare a cose nuove, quindi sono questo famoso EP molto di cui contento. Che hai citato precedentemente, esatto, sì. C'è del materiale, ecco. Una cosa che non ho detto è che ho fatto quest'inverno, ho fatto Area Sanremo. Ah, bene. Ho partecipato all'Area Sanremo con... Che cos'è l'Area Sanremo, per chi non lo sa? È una... Devo parlare bene adesso, o posso dire la verità? No, devi parlare come ti senti di parlare. È l'unico concorso pubblico che permette di accedere a Sanremo Giovani, quindi al Festival di Sanremo come giovani. Ovviamente c'erano 200 persone selezionate su non so quanti. E intanto sono passato, quindi sono andato là a fare la settimana Sanremese. Che si fa, esatto, assieme lì. E la vogliono buttare sulla scuola, in realtà, avendo fatto il chat precedentemente, ho sentito tante cose, forse già sentite, alcune cose forse un po' banali, ma comunque... In questa settimana cosa si fa? C'erano degli ospiti, si lavora sulla canzone, quindi sulla comunicazione, molto interessante. Balestra, mi ricordo il nome, Balestra del direttore artistico, credo, della Warner, che ha parlato della comunicazione, di come bisogna comunicare per, no? E poi c'era un sacco di ospiti, Masini, il pianista dei Nomadi, che è una persona che mi è piaciuta tantissimo, al di là di poi dei gusti musicali o meno, eccetera. Una specie di docenti sono. Esatto, sì, sì, fanno questa scuola, insomma, è un corso obbligatorio, diciamo, nel percorso, e poi si accede alle selezioni. Insomma, ho passato il primo range, diciamo, la prima fase di provini, e poi si è chiusa, ma lì c'è una selezione, insomma, non da poco, insomma. Quindi poi penso considerino tante cose, sì. non voglio immaginare. Ho capito cosa vorresti dire, però non lo dici. Probabilmente qualcuno era già conosciuto, insomma, qualcuno aveva un traino, già, esatto. Io non avevo questo sono sicuro, non avevo niente. Anzi, è stato un investimento non da poco, e non credo che rifarò più, perché comunque, costa in ogni caso. Sì. Io l'ho fatto un po' su consiglio di Giuseppe Anastasi, che era il docente mio del corso autori, che all'epoca scrive tutti i pezzi per esatto, che all'epoca già insegnava al CET con Mogol, però ancora non aveva, anche lui era come me, cioè scriveva, aveva i suoi progetti, insomma, però non aveva. E lui ha fatto con sincerità, all'epoca era fidanzato di Rosalba, esattamente, che è Alisa, e hanno provato, come certo. Ho provato io, e sincerità è piaciuta. Moltissimo. Perché a livello di comunicazione era la parola, il volto, il modo di cantare, particolare, tutto diverso. Un insieme di cose, tutte azzeccate, ma certo. Casualmente non è che uno, no, fa uno studio. Era il primo pezzo che scriveva Anastasi, praticamente. No, ne aveva scritti altri. No, cioè, era comunque. Però il primo pezzo che avevo inventato. Ha detto, ci credevo talmente tanto, e con Rosalba, con Arisa, ci abbiamo provato. E lei ha fatto Area Sanremo. Certo. Ha vinto Area Sanremo, ha vinto Sanremo Giovani, e poi, insomma, e poi è diventata... ha preso il percorso che ha preso. Certo. Insomma, quindi. E l'ho fatto su consiglio suo, nel senso che mi ha detto, guarda, provi, a me è andata bene, però devo dire che quel pezzo lì era non poteva non vincere, cioè, nel senso di sopra che aveva poi su musicalità, voce, sono gusti, però a livello proprio di testo, comunque di ripeto, magari non è proprio il gusto mio, a livello non ascolto Arisa, ecco, però devo dire che come autore, ecco, quel pezzo lì rimarrà, lo si canterà ancora, certo, è una melodia molto fortissima, sì. È un testo fortissimo, perché insomma arriva immediatamente, e lei aveva e ha il volto in quel momento, insomma, è un insieme di cose che non è facile azzeccare, ecco, quindi ecco. Questo è il motivo per cui ho tentato. Hai tentato la basta strada. Adesso quella non è andata, ne faremo altre, insomma. Però è una cosa che può, come il bagaglio, certo. Tuo serve, certo come hai detto, moltissimo essere stato, e l'ho conosciuta al CET, Rosalba, una bella persona. Anche lei ha fatto quel percorso là, praticamente. Questa è La Notte. Sì, La Notte, il disco. Ecco, io ho avuto la fortuna di sentire il provino ancora prima che andasse a Sanremo, perché eravamo lì la settimana prima di Sanremo, e lui ce l'ha fatto sentire così a titolo didattico. Sì, ecco. Chiaramente a titolo didattico. Bello. Tanta pancia qui. Tanta predisposizione vocale. E una volta ero a fare la spesa e l'ho sentito, ho detto... Avresti voluto scriverlo a te? Che bello, sì. Beh, non si sa mai. Non è questo sicuramente il genere, ma però come testi. Vorresti fare l'autore, nonché il cantautore. Ecco, una cosa che ho capito in quest'ultimo anno è che non bisogna chiudersi porte, nel senso che ho collaborato anche con altri compositori, con Giuseppe Tassoni, che è un mio carissimo amico, abbiamo scritto delle cose assieme, e ho fatto anche l'autore su brani dove non avevo scritto la musica, ho fatto l'autore, ho visto che anche fare l'autore, nel senso di tenere aperte tutte le porte. Ho conosciuto Edu proprio grazie, perché sono chitarrista, non sono, ecco, di sicuro un chitarrista. Edu t'ha visto suonare, praticamente. Diplomato, autodidatta, però mi sono sempre detto, no, devi fare il cantautore, e invece mi sono dato la possibilità di fare il chitarrista per qualche serata, solamente senza cantare, non ti dico che sforzo, non cantare, stare zitto dietro il microfono, fare il chitarrista, e ho conosciuto Edu, quindi... cercare di tenersi aperte più porte. Ma Edu istintivamente ha detto sì, facciamo, collaboriamo assieme, dopo poco tempo. Io l'ho un po'... Dimmi. L'ho un po', come dire, provocato. Ah, l'hai provocato. Mi ha riempito il frigo. Per quello. Allora ho detto, va bene. Hai dato il tuo appena poco. È andata alla Coop, ha fatto un po' di spesa. Possiamo anche parlare. Ovviamente all'inizio non sapeva che scrivevo, nel senso che... Non conosceva Matteo Pascotto, il cantautore, purtroppo. No. Però poi gli ho spiegato questa cosa, gli è piaciuta. Ecco. A parte gli scherzi, ho notato subito che era, insomma, che il ragazzo aveva talento. Hai notato, cosa hai sentito che secondo te andava bene? Grande, quello che faceva Matteo. Grande musicalità, ma anche un ottimo silenzio. Suona la batteria adesso, ottimo per questo ritmo, perché suona la chitarra non da Steve Vai o altri super chitarristi, però questo è anche un pregio, perché ha una bella mano destra morbida, con ritmo giusto. Un bel suono, per quanto non avesse tutta la apparecchiatura, l'infrastruttura che poteva avere, però comunque vedi che c'ha nell'orecchio quel suono lì, e ho notato che aveva, come chitarrista, poi ha fatto anche qualche pezzo cantato, mi sembrava, insomma, ottimale. Poi appunto quello che stiamo facendo un po' con i brani suoi è metterlo in piedi come cantante e chitarrista, quindi insisto che lui si prepari bene con la chitarra, no? Lo stai perfezionando, dal punto di vista da professorino di musica, certo, diciamo, sì. La bacchetta, bacchetta, purtroppo questo lato qua, insomma, un po' professorale, però quando starà in piedi proprio al 100% sulla chitarra e voce sarà, insomma, imbattibile. Perfetto, ci sentiamo un pezzo da Gil, mi fa cenno, sì, dobbiamo sentire un pezzo da disco. Cosa hai scelto, Matteo? Portami via. Un pezzo che ha girato un po' in radio. In sì, è vero. Lì, è su TPN, che è It Energy, che è la radio Pordenone, la zona più vicina a Porto. A proposito di Pordenone, parlavamo di Pordenone. Pordenone, tu sei giovane, ma Pordenone, un po' di anni fa, c'era il Great Complot, il grande complotto, uno dei gruppi più importanti d'Italia dal punto di vista indie. Cioè, alternativi, grande complotto. C'è un po' di movimento. E poi ci sono i ragazzi morti. Sentiamo il pezzo, sì, adesso lo sentiamo. Portami via. Cioè, il regista è fatto anche per questo, deve dare i tempi, chiaramente. Per fortuna. Esatto. Sia lui ad arrivare, senti queste stupide parole, prendi ciò che c'è, lascia andare questo treno amore, fa che non ci lasci qui a guardare, se ci fermiamo solo ad osservare, cresceremo mai. Non ha importanza dove vada, portami via con te. Dimmi che hai voglia di viaggiare, sali su con me. Sempre al senso del camminare, se cadere serve ad imparare, voglio ancora alzarmi su. Non ha importanza voglia di viaggiare, sali su con me. Non ha importanza dove vada, portami via con te. Dimmi che hai voglia di viaggiare, sali su con me. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Da professore come Gil mi ha dato l'ok, adesso partiamo. Vedi Matteo, sono riuscito ad avanzare, andare oltre le 22.30 come ti avevo detto, sulle 22.42 questo. Vedi, la musica è bella anche per questo, non ci sono gli orari della musica, si suona, si parla, si discute, si chiacchiera, si parla della tua vita musicale, del tuo disco che hai pubblicato, del tuo nuovo progetto, dei nuovi orizzonti, quelle cose messe nel cassetto che verranno fuori, verranno tirate fuori con calma, perché non è facile, come tu hai detto all'inizio, non è facile fare un disco, ci vuole sangue, sudore e lacrime, blood, sweat and tears, come dicevano noi. Anzi, forse, un po' di tempo fa, forse una volta quando i mezzi erano più, no? Era più difficile, adesso un disco si fa, adesso molto, si fa in molto casa, più facilmente. Esattamente. Forse era meglio. Ma Edu prima citava c'era un filtro del digitale e non digitale. L'analogico è più sofferto del digitale, assolutamente. Ma cosa dici? Tu che sei un esperto. Sì, beh, non sono esperto. No, però, c'è più feeling nell'analogico, sì, c'è più vita. Allora, questa è una cosa un po'... dibattuta. Sì, nel senso che si può anche arrivare a quel tipo di imperfezione, anche col digitale. Oggigiorno è difficile dire che mi manca l'analogico, perché i dischi sono dei dischi talmente belli e caldi, fatti totalmente in digitale, che poi sono magari... filtrati con delle idee analogico, addirittura c'è chi riversa sui nastri e rimette in digitale, c'è tutto un processo che il calore non manca, cioè per un periodo è mancato il calore, adesso non si può dire, no? Quello che è molto diverso è il processo proprio di creazione, dove con l'editing si fa praticamente già la parte creativa del disco. Una volta era correttiva, no? Adesso è creatività, passa per l'edit, perché tante volte uno non suona neanche tutto il brano intero, già incomincia a editare dei pezzi migliori, a spostare cubetti di qua e di là, e questo per me è il problema del digitale, non il suono, perché non si può dire appunto. L'editing, praticamente i cubetti da spostare. I cubetti, quelli sì, è troppo facile montare, diciamo, tra virgolette, un pseudo brano, no? E è più difficile prepararlo acqua, dov'è l'acqua? In anticipo, no? Allora, nel periodo in cui esisteva solo l'analogico, e tutta la preparazione doveva essere fatta, insomma, a regola d'arte. Certo. Infatti esisteva l'arrangiatore che era un arrangiatore, un produttore che era un produttore. Ognuno faceva il proprio ruolo. Il tecnico, cioè ognuno faceva il proprio. Adesso tutti sono produttori, creativi, arrangiatori, tutti fanno famosi tutto. DJ. Matteo che tutti Pascotto, conosciamo. produttore, ma stiamo scherzando. Hai fatto tutto. Dove siamo arrivati? Ma cose da pazzi. Esatto. Però adesso si fa di tutto, si cerca di fare tutto, anche per un motivo di costi, chiaramente. Infatti questo era il motivo, insomma, ironico ma sincero, col quale dicevo che una volta sicuramente era più difficile farlo, e sicuramente c'era anche più qualità, nel senso che adesso, no, si arriva molto più velocemente a una produzione, insomma, che non una volta, quindi si ascolta tanta più cosa fatta in casa. Ma perché c'è questo ritorno dei grandi gruppi? Ad esempio Pearl Jam da un po' di tempo incidono solo in analogico, e Pearl Jam mica un gruppo di secondo piano, chiaramente, o tanti altri amano fare analogico, ritornare ad analogico, perché è più vivo. Al discorso della polemica che abbiamo, polemica per modo di dire, questo, sì, questa interpretazione un po' diversa, perché l'analogico è più vivo, non è vero, anche se col digitale si riesce a trovare una, un perfetto connubio. Ma sicuramente le riprese, quando la produzione permette, vengono fatte tutte analogicamente, no, le riprese, la chitarra nell'amplificatore, l'amplificatore col microfono, eccetera eccetera. Quando non c'è il budget, la chitarra non è va possibile, praticamente in diretta, certo, e lì si perde una buona parte, anche se ci sono, insomma, nella catena audio dei prodotti ormai che riescono anche a riscaldare una chitarra in diretta, insomma, quindi si può fare di tutto adesso, si può fare di tutto. Importante, ho visto che suonano con l'iPad adesso, sì, sono, vabbè, chitarristi che hanno l'iPad con i, in guitar rig, tutti, sì, i suoni, infatti. Cosa da, ma anche parte, lì è poter suonare con l'elettronica è una cosa molto bella, non è, non vedo un problema. Il problema sono, nel caso dei guitar rig e altre cose, quando ci sono pochi suoni già confezionati, quindi la creatività nel suonare elettronico viene meno. Ho capito. Però di per sé suonare un oggetto elettronico lo trovo molto bello, no? È sempre una discussione che potrebbe andare avanti per ore. Ah, certamente. C'è chi è favorevole al digitale sotto punti di vista, chi è favorevole all'analogico sotto punti di vista. Io, che sono di una certa età, amo particolarmente l'analogico, perché secondo me l'analogico, anche se non è vero, chiaramente posso sbagliarmi, l'analogico ha un altro suono. Anche tu vuoi dire, non è vero, se tu senti dei digitali, sono dei digitali meravigliosi. Adesso. Anche parlando anche, anche degli ultimi 5 anni. Adesso. Una cosa molto recente. Prima è chiaro che si sentiva. Prima è un'altra cosa. Sì, sì. Facciamo un esempio tangibile, il famoso doppio album dei Pink Floyd, The Wall. Chi dice, gli puristi dicono che quando lo senti in vinile hai un suono, quando lo senti in CD hai un suono diverso. E manca di calore. Ecco, allora, il calore a volte si può fare, no, non è quello, il calore del vinile tante volte è un ricordo che uno ha da piccolo, esatto, della, vedi che anche della tu puntina sei molto che graffia, quindi se la puntina graffia è un'imperfezione, però abbiamo imparato che quello è calore e quello diventa emozione. Questo è vero. Ecco, le emozioni vanno anche imparate, purtroppo vanno anche pilotate. Veicolate. Vedi che anche tu sei un po' psicomotricista. Forse, certo, ci siamo trovati anche per quello. Per quello. Esatto. Ok, sono 22:48, adesso facciamo l'ultimo pezzo da disco e poi terminiamo suonando. Sì. Abbiamo un altro pezzo, mi pare, vero Matteo? Siamo noi. Siamo noi. Cosa voi vorresti dire su questo pezzo, Siamo noi? Ecco, qua invece lodavo i giovani che invece, no, alcuni li criticano, i giovani di adesso, io su questo pezzo li lodo, nel senso che è una difesa, insomma. Nel senso che ne ho visti tanti, certo, di belli, ce ne sono ancora e bisognerebbe parlare di quelli e basta, e non di tante altre cose, e non di tante altre cose, ecco, quindi ti è venuto così? Sì, è un pezzo di in cammino, in cammino, ecco, diciamola così. Bene, siamo noi. Ritenterò, con forza vivrò, senza più sbagliare. Divorerò, con la mia fame sarò impaziente di imparare. Camminerò a testa alta però, umile nel cuore, hey, hey. Misurerò, convinto di ciò, le mie forze da impiegare, dicendo i miei no ad un sistema che io non posso sopportare. Inseguirò notte e giorno il sogno che qualcuno ha messo dentro a me nel cuore. Siamo noi capaci di emozionarci ancora, siamo noi che ancora crediamo in qualche cosa, siamo noi convinti di un mondo da cambiare, ma cosa credi, ormai nessuno ti sa consolare. Io rischierò, pagando con ciò le conseguenze più amare. Osserverò gli sbagli altrui senza giudicare. Le riguarderò il dolore che c'era in me e che non voglio più provare. Yeah, yeah, yeah. Siamo noi capaci di emozionarci ancora. Siamo noi che ancora crediamo in qualche cosa. Siamo noi convinti che il mondo sa cambiare. Consoliamoci anche per chi non lo sa fare. Insieme noi siamo noi, insieme finché ce ne sarà. Convinto che ci sia un motivo per dar voce ai sogni tuoi. Emozionarci ancora, siamo noi che ancora crediamo in qualche cosa, siamo noi convinti di un mondo da cambiare, ma cosa credi, ormai nessuno ti sa consolare. Emozionarci ancora, siamo noi che ancora crediamo in qualche cosa, siamo noi convinti che il mondo sa cambiare, consoliamoci anche per chi non lo sa fare. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Per essere uno che scrive da solo, che questo pezzo l'hai scritto tutti da solo, praticamente è un pezzo molto accattivante, da movimento. E sì, ripeto, all'inizio, mentre parlavamo, cari ascoltatori, mentre il pezzo non andava, aveva un bel organo, un organo molto nero, un organo anni 60. Io avrei allargato l'orizzonte dell'organo, tu chiaramente l'hai ristretto per poi concludere alla fine. Sì. Io l'avrei allargato musicalmente. Eh sì, beh, mi piaceva. Sì. Io a me ricordava gli Animals, quella bella tastiera di Alan Price all'inizio. Poi le cose sono cambiate, l'evoluzione del pezzo è diversa, lontana da Alan Price, però all'inizio era un Alan Price, era molto anni, certo, 60. Io l'ho sentito così. Beh, mi fa piacere che ti sia piaciuto. Cioè, mi è piaciuto moltissimo. Beh, molto molto bello, predispone al movimento. È un bel tiro, bel tiro, un bel, sì, tiro, sì, un bel, sì, tiro. Sì. Allora adesso abbiamo deciso, caro Gil, abbiamo cambiato un'altra volta la scaletta, lo sai, le cose, sai, cambiano sempre qui a Blue Time Live. Yeah. Allora facciamo così, adesso Matteo e Edu ci fanno sentire un altro pezzo live. Che abbiamo già sentito. Che abbiamo già sentito, facciamone uno anche del disco in acustico, sì, no? Facciamo un pezzo di... E poi Matteo concluderà alla grande con un pezzo da solista. Yeah. Allora cosa sentiamo Sole adesso? Sole senza luce, che abbiamo sentito prima, lo facciamo... Basso e chitarra adesso. E voce. E voce, ok. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. I don't know. Sole senza luce, che strano cielo, pioverà. Grande la mia sete di ridere con chi non è qua. oltre il finestrino, quell'acqua nuova che ci cambierà. Scusa se dentro me c'è confusione, perché quando rido, quando grido, questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me. Non è un'illusione cercare la felicità, è il buio dei miei occhi a non vederla mai là. A volte una lacrima che grande forza sprigionerà. Scusa se dentro me c'è confusione, perché quando rido, quando grido, e questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me. Scusa se dentro me c'è confusione, perché quando rido, quando grido, questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia come polvere d'amore, nasce con il sole e questo voto strano se ne andrà, passeggiando al mare, libero di fare, anche se domani c'è un nuovo cielo e tu non sei qua. Quando rido, quando grido, questo cielo senza luce sembra quasi che ce l'abbia con me. Yeah, oh, oh, oh, I don't know. Yeah, oh, oh, oh, I don't know. Ok, ok, ok, ci siamo. È la cuffia, devi metterti la cuffia, Matteo. Abbiamo finito, però, questo era un pezzo molto bello. Abbiamo notato, cari ascoltatori, un giro con la chitarra da parte di Matteo e un bellissimo a colorazione con il basso da parte di Edu. Ci abbiamo lavorato oggi pomeriggio. Ci avete lavorato oggi pomeriggio. Era il finale. Che si col caldo. Che si conviene. No. Ho sbagliato una nota. Hai sbagliato una nota. Faccio l'autodenuncia. Vedete che c'è qualcuno di serio che mi ascolta. Mi autodenuncio. Hai sbagliato una nota. Non sei notato. Ma io sì. Ti voglio bene lo stesso. Va bene lo stesso. Prima di finire, caro Matteo, devi dare i tuoi riferimenti. Sì, allora il disco è su tutti gli store, iTunes, Amazon, ok, basta su Google cercare Matteo Pascotto e su iTunes si trova. Io ho la pagina, non c'è un sito, ma speriamo di poterlo fare, sempre per un discorso di frigo vuoto. Certo. Però adesso i social network ci aiutano, quindi c'è la pagina Facebook, c'è la pagina di Twitter, quindi basta cercare Matteo Pascotto e lo trovate, insomma. Ecco, con le ultime novità ogni tanto è comodo perché si pubblicano video, foto, anche adesso qui le pubblichiamo, sì, le pubblichiamo esattamente, quindi è molto immediato, ecco, quindi lì posso interagire, comunicare, parlare, molto bello. Hai qualche data con Edu oppure no? Siamo in lavoro. Siete siamo in lavoro, quindi ancora non c'è la data, perché aspettiamo aspetto di lavorare appunto sui nuovi brani e poi speriamo più presto di far girare la musica anche con il live, perché insomma diciamo che per i musicisti insomma è la base, c'è bisogno, sento che mi manca tanto, insomma, quindi a presto riprendiamo. Certo, insomma. Un'ultima cosa ancora per ribadire: se uno vuole fisicamente il tuo disco, come deve fare? Il problema è quello. Masterizzarlo. Aspetta qualche tuo concerto. Che mi scriva sulla pagina e ovviamente sono ben contento e felice di portarlo anche fisicamente. E poi le prime serate ovviamente le avrò a disposizione. Insomma. Il famoso palchetto dove venderai i tuoi dischi, fare. Certo. È una cosa molto bella, certo. È un modo per gli amici promuovere. Ce li hanno tutti, grazie a Matteo Pascotto, vediamo se pronuncio bene Edu Heblin, bravissimo. Ho pronunciato dopo, alla fine del programma sono riuscito a pronunciare tutto. Ma non quanto è colpa tua, è difficile, però bisogna imparare. Grazie a questi ottimi musicisti ci avete fatto ascoltare musicalmente il percorso musicale tuo, Matteo, certo. E con cosa concludiamo? Domani io sarò a Fondi al premio Donida per la semifinale. Ho passato la prima selezione. Bene. Quindi domani ci sono le semifinali del premio Donida. Sarò a Fondi con questo pezzo che si intitola Io e Te, ed è il pezzo che avevo presentato ad Area Sanremo. E quindi l'ho riutilizzato. Ecco, qui è stata una collaborazione, perché la composizione è fatta con Giuseppe Tassoni, che ho già citato prima, amico pianista, sì. Ecco, con il quale ho fatto delle collaborazioni e sul testo ci ho lavorato io, quindi domani sarò lì e vi faccio sentire questo pezzo, la prima volta che lo faccio sentire pubblicamente in radio, in radio addirittura. Esattamente. Quindi, benissimo, grazie a Gilles Facchinelli, che ha seguito in regia stasera, e domani ci sarà sempre lui in regia, Luca Loizzi mi pare, come una telefonica, e poi ci sarà un gruppo prog. Wow. Prog Mantovano, molto interessante. State al microfono. Al microfono, state all'apparecchio. Noi saremo al microfono. Grazie Matteo, grazie a Edu. A voi. Grazie. Buonanotte a voi. Un abbraccio. Freddi come neve d'inverno ci rendeva solamente amici io e te. Quella notte calda d'estate mi diceva di passare i fatti con te. Tu sai, con te uscirei, io anch'io vorrei. Dai, esci fra un'ora, oh yeah. Io sai, ci proverei, tu ci sono i miei. Ma baciami ora, noi che da sempre ci stiamo cercando, unici te. Noi che da sempre ci stiamo amando, unici te. Noi che da sempre ci desideriamo, unici te. Noi che da sempre ci apparteniamo, unici a te. Oltre il tempo, io e te. Sai che innamorarsi davvero fa paura, ma non capivamo il perché. E per fortuna il ghiaccio si scioglie, primavera, ed ora mi vuoi solo per te. Tu, ma dove vai? Io, cosa avrai mai? Tu, quella chi era? Noi che da sempre ci stiamo cercando, unici a te. Noi che da sempre ci stiamo amando, unici te. Ma l'amore, lo sai com'è, in dolore. mai non è. Qualcosa si cambierei, ma in ogni sua stagione io scommetterei. Noi che da sempre ci stiamo cercando, unici a te. Noi che da sempre ci stiamo amando, unici a te. Noi che da sempre ci desideriamo, unici a te. Noi che da sempre ci apparteniamo, oh, unici a te. Oltre il tempo, io